se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. No, oh, che sbadato. Con voi bisogna precisare di quale menzogna si parla. There's a man in New Orleans who plays rock and roll. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of coal. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone. Jump like a catfish on a pool. Yeah, you know he's gone, gone, gone. Have shaken King Creole. Oh, when the gig starts to do it, it's as good as done. He holds his guitar like a Tommy gun. He starts to growl away down in his throat. He bends a string and that's all she wrote. You know it's gone, gone, gone. Jumping like a catfish on a pool. Comunque il Movimento 5 Stelle si batte per il lavoro. Sì, per non farli lavorare la domenica. Ma il governo Gentiloni punta più in alto. Non farli lavorare neppure negli altri sei giorni della settimana. Sì. He sings a song about a pork and bread. Come on. He sings some blues about New Orleans. You know it's gone, gone, gone. Di Battista ha annunciato che presto diventerà padre. Sì. È la prima cosa che fa senza l'aiuto di Grillo. Sarà maschio? Sarà femmina? Deciderà il web. E dopo 31 anni è finita la storia tra Berlusconi e il Milan. Sì, lui era felicissimo. È la prima volta che non deve pagare gli alimenti, quindi... Noi abbiamo paura della guerra nucleare, ma però pensando che nel weekend molti italiani sono stati ad Amatrice per farsi dei selfie con dietro le macerie del terremoto, ecco, pensando che l'umanità è questa, a noi viene anche un po' da dire... Kim, prendi bene la mira e fai presto. Oh. Paolo e Luca, eccoli qui da Di Martedì. A me piacciono più di Crozza, molto più di Crozza. Devo dire che ultimamente era abbastanza noioso, Ma insomma, qui alle 6:30 minuti in punto. Buongiorno, cari amici. Buongiorno. No, quello lì era un altro. Sei con te? Ah, mamma mia. Presidente, qua stiamo mettendo a punto tutta la conduzione 4.0 con Vincenzo De Luca. Ma si capisce che non è mestiere tuo. È per quello che noi ci stiamo attrezzando. È per quello che ci stiamo attrezzando. Licenziato. Oh, ma anche con pacatezza, tranquillità, serenità, mica grande tensione, proprio così, sereno. 13.000 euro netti al mese. Sì, vabbè, questo l'abbiamo già approvato, è l'unica cosa che è stata approvata, lo stipendio del presidente De Luca come conduttore 4.0 di 24 mattine. Te ne devi andare. Allora, signori, fa freddo, questa è la vera novità. Fa freddo, a Lanciano 2 gradi, ci fa sapere Adriana. A Babato 1,5 gradi, anzi 2. A Bariano 2 gradi. Vedete ragazzi. A Cisternino, Brindisi 8 gradi. A Sirtori 6 gradi. Siamo credo a Lecco, A Fregona, Treviso 4 gradi. Tempo bello, ragazzi, ma 4 gradi. A Udine 4 gradi. Mandi. In Riva al Piave 3 gradi, Nino, che freddo! 6 gradi a Merate, che frecce! Ci dice Ivano. È un disastro, signori. Si è passati dalla maglietta a prendere il sole al cappottone. Questo è. A Savona 4 gradi, freddo boia. A Remedello, Brescia, 4 gradi, ci dice Marchino. e a Bassano del Grappa 5 gradi e brrrr. Basta con la solita radio. Signori, la vogliamo vivere più social. Ecco che con la nuova stagione inizia a casa di Paola. A casa di Paola. Con l'eco, con l'eco. A casa di Paola. A casa di Paola. C'è la nostra Paola Saluzzi, signori, direttamente da Sky. Buongiorno, mitico. Ma io posso fare una coda alle previsioni del tempo? Come no? Una cosa che capiscono molto le donne e molto meno gli uomini, e sì, non è una dichiarazione contro gli uomini. Ma puoi farla. Abbiamo già fatto il cambio dell'armadio. Il cambio dell'armadio, che giusto. Che comporta giusto un lavoro mastodontico. Sì. Comporta un lavoro che solo le donne possono capire, e ti torna il brutto tempo, anzi il freddo. Ma infatti, tutte le magliettine tirate fuori, ma provo anche a Roma fa freddo? Anche un freddo becco stamattina, brrr. Ma freddo. Caterina di nuovo, brrr, tutta agitata. Ah, giusto. Si è nascosta dietro la coda da gatto che ha, avendo la faccia da gatto a forma di gatto, e quindi Senti, buongiorno Lino. Vuoi affacciarti alla finestra e dire qualcosa a qualcuno? Sta passando qualcuno? Vedere. No, non ci sono neanche i tassisti. Niente, è un disastro. No, va bene. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Qualcuno lo chiamo, No, ma infatti. Sei in diretta. Sì, su sì, Radio sì. 24 con Alino. E tu puoi fare quello che vuoi. Puoi ma fare. Ma cioè, è meraviglioso. Puoi fare dire puoi fare urlare qualcuno, qualcosa. Qua siamo in diretta. Non c'è problema. Non c'è nessun filtro. Nessun filtro. Capisco, va bene. Allora. Te lo do conto. Allora, insieme a Paola Saluzzi, direttamente da Sky alle 10, ora in onda su Sky, dalle 10 alle 12, c'è anche il nostro super mega dir, il nostro Luca Dini, buongiorno. Buongiorno, ciao Paola, buongiorno. Direttore di Vanity Fair. Allora, signori, qua ci sono tante cose internazionali, non lo so da che cosa vogliamo partire. No, c'è una fotografia che mi ha colpito sui giornali. Allora, apriamo il Parlamento, c'è questa fotografia, dov'è che è? Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente! Mi ha talmente colpito, cara Paola, che l'ho persa. Spesso succede, le cose che ci colpiscono di più... Però ci siamo capiti. Lo so che tu mi leggi nel pensiero e ci siamo capiti. C'è una donna, figlia di un presidente. Eccolo qua. La figlia del presidente del Kirghizistan. Tu conosci, Paola? Conosci, sono stata. No, sul serio. Ma veramente? Adesso dai, raccontaci tutto del Kirghizistan. Allora, sono le 6:35 minuti, signori. Il Kirghizistan. Paola Saluzzi. Ragazzi cari, io sono ambasciatore di buona volontà dell'Unione. E sono stata in Kirghizistan nel 2008 per 10 giorni per andare a vedere lo stato di difficoltà in cui versa l'infanzia da quelle parti. Il Kirghizistan è un paese meraviglioso dal punto di vista geografico, iniziano le grandi catene montuose che poi porteranno all'Himalaya. Cioè, ma vi rendete ci sono aquile dappertutto, nel senso che tu sei a Roma e vedi volare i piccioni, purtroppo anche i gabbiani, devo dire, che dovrebbero stare altrove. Purtroppo, io invece li adoro i gabbiani, vabbè, ma questo è un altro discorso. Ma sono violentissimi. Nel violentissimi, senso che adesso addirittura. A Roma ammazzano i piccioni, per esempio. I gabbiani. Cattivoni questi. Comunque, gabbiani. Cattivoni. Torniamo al Kirghizistan. Tornando al Kirghizistan... ho volato su dei Tupolev che avevano lo stesso mio anno di nascita e sei qui a raccontarlo, però. E sono qui a raccontarlo ed è un paese molto povero, molto corrotto, e non bello forse da un punto di vista di architettura, molto bello da un punto di vista di natura. Signori, uno e pensa molto lontano, pensa molto, di molto lontano. Pensa di coglierla in castagna con un'interrogazione a piacere sul Kirghizistan, invece tu Luca nei tuoi Uzbekistan non l'avrei saputo, ma Kirghizistan sì. Tu Luca sei mai stato in tu che vai in giro per il mondo, si sa, ogni giorno. No, mi dispiace, sono invidiosissimo, Invidiosissimo del Kirghizistan. Comunque, la notizia è un'altra, c'è una foto che gira, forse l'avete vista, è la figlia del presidente del Kirghizistan che allatta e quindi insomma c'è suo figlio o sua figlia, non lo so, attaccata al seno. Voi non sapete cosa ne sta passando. lapidata per una lapidata in maniera ovviamente figurativa, per sua fortuna, metaforica. Sì, è metaforica, per una foto su internet. Tuo marito evidentemente non ti ha spiegato bene come ci si comporta. Ci dispiace, vabbè, è un paese anche islamico, questo lo puoi confermare? Maggioranza islamica musulmana? Anche. Ma sì, vai avanti, poi ti dico. Che vi devo dire? Cioè, nel senso, siamo nel 2017 e siamo ancora a questo tipo di, no? Cioè, non dovevi scoprire il seno per allattare tuo figlio. Sì, che peraltro non è neanche scoperto, cioè non è che si vede proprio il seno, però si vede che insomma, così, in déshabillé. Lo sai qual era la campagna sta allattando. Lo giuro, chiudo sull'argomento. Era far tornare le donne ad allattare al seno. Ecco. Perché quello che era passato, specialmente sotto Repubblica Socialista Sovietica, era non c'è tempo, e quindi allattamento a biberon come capita, dando ai bambini acqua e zucchero al posto del colostro materno appena nati. Risultato, una moria dei bambini che faceva paura. Ecco. Non so se le due cose siano collegate, credo che questa tristemente sia più di carattere medievale, non scoprire una parte di te, ma insomma siamo lì. Questo è, no, siamo ancora a questo tipo di attacchi alle donne, siamo indietro, poi in alcune situazioni ancora più indietro, però caro Luca, questo... Ma viene, insomma, è uno di quei casi in cui no, si dice sempre che bisogna rispettare le altre culture, a volte no. Ma qui che cultura c'è poi nel dire? No, è una tradizione, cioè sai, sono culture tribali, sono culture... l'Islam c'entra in parte, perché poi qui si sovrappongono anche altre cose. Bravo. Sì. Ci sono le polemiche anche in Italia, quando si vede, cioè, ci sono le donne che allattano in, non so, magari in locali pubblici, magari sono meno forti le polemiche, ma ci sono di donne che vengono. Io personalmente prenderei a schiaffi tutte le volte che sento qualcuno che si lamenta, perché è proprio da imbecilli, che cosa vuoi dire? Cioè. Sì, nient'altro. Non ho altre parole. Non hai altre parole, giustamente. Ti mandiamo hai vinto un viaggio premio in Kirghizistan. Questo era il... Ma voglio dire, quando succede da noi lo trovo ancora più ingiustificato, ancora più imbecille. Ancora più imbecille, sì. Perché non c'è neanche una giustificazione culturale, proprio imbecillità. Comunque, insomma, questo mi ha colpito, perché così l'ho vista in prima pagina oggi sui giornali, ieri girava un po' sotto traccia, oggi viene giustamente messa in rilievo, perché anche da queste piccole cose bisogna imparare, insomma, a fare dei passi in avanti. D'altronde qui in Italia, cara Paola, tu di cosa parli al mattino? Perché la politica è tutta inchiodata su questa cosa. L'IVA, forse cresce l'IVA, forse aumenta l'IVA, Renzi non vuole far aumentare l'IVA, Padoan, questa attenzione al retroscena, Padoan pare si sia rotto. Ve la do così, si sia rotto, così. Si è rotto, detto così, Paola, Padoan si è, virgolette, si è rotto. Aggiustiamolo, e no, io parlo di cronaca. Non ti dico oggi. Cosa, si guarda, è rotto. Guarda come svicolo sulla tua domanda, proprio faccio una curva. Parli di cronaca, di cosa parli? Beh, insomma, abbiamo la signora May che sì. Cronaca, nel senso, cronaca anche internazionale, certo. La signora May che dice, sai che c'è, nuove elezioni. Gente che spara in varie parti del mondo, no? Da Cleveland fa in tempo a trovarne uno che dice di Maria, e quello dice Maria, ecco chi ti sta ammazzando, pium, e gli spara, grande uomo, e poi se ne va su Facebook per tre ore. E no, insomma, tratteremo sicuramente anche questo tema. Poi sai, IVA, tasse, non si può svicolare. Tra l'altro, la May, facciamola sentire, perché guardate, qui c'è un insegnamento a tutti i politici italiani che sentite qua l'annuncio di Theresa May, Prego. I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. A parte che voglio dire, Luca, ma vogliamo parlare della straordinarietà dell'inglese, no? Con una pronuncia che the pen is on the table. Cioè, che è una perfezione, la perfezione della lingua. Signori, questo è l'insegnamento a tutti i politici del mondo e anche i politici italiani. La signora Theresa May ha una maggioranza, credo, di 17 voti in Parlamento, e questa maggioranza secondo lei non le consente di essere liberamente in grado di decidere nel momento della Brexit, perché 17 poltrone, 17 voti sono troppo pochi. per una maggioranza, è una maggioranza risicata, e quindi dice si vada a elezioni perché dal suo punto di vista sono sicura che confermeremo il mio governo e quindi saremo più forti. Signore, penso se non la confermano. Questo è il gioco della corre politica, rischio. Voglio dire, corre il rischio, corre l'azzardo della sua carriera politica, certamente. Luca, ma ti ricordi, non so, il governo Prodi, ti ricordi quando inseguivano il senador Pallaro in Argentina? Ti prego, torna a votare che balliamo di un voto, di due voti. Terribile. Proprio l'insegnamento italiano. Bisognerebbe avere poi il sistema elettorale inglese, per cui è possibile avere una maggioranza di 17 seggi ed è possibile anche che sia poco. Da noi 17 seggi sono un miracolo, diciamo. È un miracolo. Ci sono anche 400 partiti in Gran Bretagna. Esatto, sì. Poi non si scindono più dell'atomo, diciamo. Non si dividono in le particelle subatomiche. Come Brit, il nostro direttore, però. Ma è vero, è tutto più dell'atomo. È un sistema politico totalmente diverso. Però, è il CERN, praticamente, politica italiana. Però capite che in Italia quando si ha una maggioranza di 17 voti si stappa lo champagne, Paola. Ma te li ricordi anche tu, dai, quando si ballava di 4 voti, 3 voti, uno che passava di qua, l'altro che passava di là. E quindi, Non ammalatevi, divieti. Razzi, nipoti. E invece si è andato giù da Kim Jong? Sì. Ma è tornato purtroppo. Beh, dai, Razzi in Corea era il titolo che tutti speravamo, ma sì. Non nel senso di. Di Antonio. Il nome ci sta tutto, perché lì stanno facendo a gara veramente a chi dice io tiro più lontano il sassetto, diciamo in maniera elegante. Razzi in Corea, sarebbe stato bene. No, però voglio dire, Theresa May fa l'azzardo politico della carriera, cara Paola, e come ne uscirà lo scopriremo. Però ti piace questa sfida, voglio dire, politica, dire mi gioco tutto, no? Per essere più forte. Non è un po' il senso della politica? In questo caso molto inglese, perché non dimentichiamo, Isola Piccola comanda il mondo, ha comandato il mondo e parliamo tutti quella lingua se vogliamo parlare tra noi, quindi... Mm-hmm. Sì, molto, molto diretta, vedremo che succederà. Certo, si gioca un po' tutto, e vabbè, insomma, io non sono una tifosa della Brexit, quindi parlo da non tifosa della Brexit, però vedremo. Vabbè, ma diciamo, non credo che questo tolga il sonno a Theresa May. No. Più che consapevole. No. Insomma, era per esprimere un personale. Eh sì, c'è da dire che insomma, vediamo, anche lei se l'è un po' ritrovata, insomma, a gestire questa cosa della Brexit, non è certo il leader di UKIP Farage che era. Mamma mia. Cos'è? Lo vorresti mandare in Corea con Razzi? Magari. Vabbè, sì. Che dobbiamo fare? Dai, intanto noi andiamo alle informazioni sul traffico e poi entriamo con Luca Dini e Paola Saluzzi. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico! Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta... Vedete che non ne capite una mazza di lavoro, che non avete mai lavorato, basta che vi svegliate presto se vi pensate che è lavoro. Milan, forse non lo sai, ma nei club azzurri si sta creando un sottoclub, salvatelo dalla brambilla. Io sono un infermiere e il sabato e la domenica lavoro sempre. Yahoo! Milan, ma che cazzo dici? Ma chi lo sceglie più oggi il lavoro? Sveglia, ma dove campi tu? O meglio, lo sappiamo dove campi, nella lussuria. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Ho insomma sconsigliato ai turisti del dolore perché qualcuno ha scacciato in malo modo di venire a fotografare macerie, a farsi selfie, no? È una forma di rispetto, ma l'ho cacciati. Mi sono pure incazzato, scusa il termine. Questo è il sindaco di Amatrice incazzato, come dice lui, perché alcuni turisti si fanno i selfie con dietro le macerie. Ha ragione, ma sì, ma ha ragione. Ha ragione. Ti fanno una triste gobba, un sì, sì, ha cacciato i turisti. Signori, questi, allora, la segreteria telefonica si è animata per la questione del lavoro della domenica, no? Il lavoro della domenica. Io vivo nella lussuria. Guarda, sei un lussurioso. Sì, ma magari, caro ascoltatore. Vabbè. Lussurioso Lino. Sì, ma poi, ma questa cosa adesso. Allora, l'ascoltatore voleva dire che sono, che vivo nel lusso, dai, si sa, è un privilegiato, la poltrona. La casta, sono della casta, con la K, con la K. E allora non posso dire nulla, io che come tutti, ma senza lamentarmi, come dire, qui anche a Radio 24, come Paola Saluzzi, ha lavorato per anni la domenica, il sabato, insomma, si fa un lavoro, ecco, diciamo, facciamo un lavoro. Un lavoro. Facciamo un lavoro che per me. Luca Dini, quante domeniche hai lavorato? Per chiudere il giornale, per... Sì, normale. Io dico solo una cosa, che più che prendersela con chi fa lavorare di domenica, bisognerebbe cominciare a chiedersi: ma io vado mai a fare la spesa di domenica, per esempio? Esatto. Oppure è una cosa che decido di non fare perché credo nel giorno del riposo, nel giorno di Dio, chiamalo come vuoi. Perché poi alla fine è un po' ipocrita, secondo me, prendersela con un sistema che finisce per far lavorare le persone di sabato, di domenica e nei festivi, nei super festivi, e poi approfittarne perché è comodo, perché alla fine facciamo una vita diversa da quella che si faceva 50 anni fa, e quindi vogliamo approfittare di questa cosa qui. Sì, ma comunque, cioè, ripeto, è una polemica che non capisco, anche se oggi l'intervista del giorno, attenzione, è quella di a Tarquinio, direttore di Avvenire, e voi dite che c'entra il direttore di Avvenire? Intervistato sul Corriere della Sera, dice, cara Paola Saluzzi, che questa cosa di Maio, che appoggia il non lavorare la domenica, è una cosa che i cattolici vedono bene, e vede il Movimento 5 Stelle per tre quarti delle idee vicino ai cattolici. Adesso pensare che questa uscita di Di Maio possa essere stata per strizzare l'occhio ai cattolici, vabbè, in Italia vale tutto, non lo so. Teniamoci fuori dalla polemica politica. Sì, ma i cattolici che leggono Avvenire, che non sono i tre quarti dei cattolici. No, lo dico senza polemica. No, certo, un tipo di cattolico. Ma al di là della questione politica, Paola, qui c'è la questione del lavorare la domenica. Ci sono migliaia di italiani, milioni, centinaia di migliaia che lavorano la domenica, ma pensa anche solo, a parte i servizi essenziali, ma poi vedi l'infermiere. Io penso, dunque, il cambio è stato ormai, il cambio è un cambio dal quale non si torna indietro, no? Quindi se noi pensiamo che da ragazzini noi tre ci stiamo parlando alla radio, c'era il giovedì, per me, io vi parlo di Roma, il giovedì c'erano tutti gli alimentari chiusi. Perché il giovedì? Quindi disperazione. E no, che succedeva il giovedì? Perché il giovedì? C'era un turno di riposo infrasettimanale per gli alimentari, e quindi non c'era un negozio, sto parlando di alimentari, cioè il supermercato ce n'erano due in zona forse. Certo. E ti parlo di Roma, no? Poi chiaramente è tutto cambiato. Ma se tu pensi che andando, cito New York per citarla, fai la spesa a mezzanotte e mezza, all'una, alle due di notte, la spesa con tutto aperto, tutto, e questo io credo che nella iper difficoltà di chi lavora anche la domenica, però corrisponda anche ad un maggior numero di posti a disposizione, ma poi il mondo è andato di là, l'ira funesta addosso di tutti, è un lavoro in più o è un lavoro in meno? Ecco, forse la gestione di questo lavoro va riconsiderata, il modo in cui viene fatta lavorare la gente va riconsiderato, non ci sono dubbi, ma è un mondo che va avanti. È un mondo che va avanti, ma infatti io la penso anch'io così, però insomma vediamo. Non abbiamo parlato di report, perché io non ho visto report, ma c'è tutta una polemica su report, i vaccini. Pensavo di sì. Tu l'hai vista? Io ho letto tutto quello che ho cercato di informarmi. Sì. E che cosa ci puoi dire? Perché pare si parla di chiusura di report, di stop di report. Sul di report non lo so, però devo dire che è stata una cosa piuttosto infelice, e a me viene in mente quello che mi raccontava un maestro di giornalismo, che diceva che i giornalisti vanno in giro con una toga invisibile, cioè devono essere consapevoli del loro ruolo. Sì. E quindi quando si parla di queste cose, cioè non è tutto legittimo, cioè bisogna sempre soppesare le conseguenze di quello che si fa. Quindi se tu parli dei possibili, potenziali, minimi effetti collaterali di un vaccino, devi sapere che forse il giorno dopo 100, 1000, 10.000 persone decideranno di non far vaccinare i loro figli. E quindi è una responsabilità grossa. Certo. Cioè, non è che perché tu dici una cosa che è vera, allora vabbè, però vabbè, non è un problema, perché ho detto una cosa che in realtà alcuni dicono che è vera, però non funziona così. Cioè, quando si parla di questi temi, bisogna avere ovviamente molta attenzione. Responsabilità. La polemica c'è. Avete letto invece a proposito di non vaccinare, nel senso che molto spesso ormai non ci si vaccina più per il morbillo. Gli Stati Uniti indicano come paese a rischio morbillo, quindi vaccinatevi prima di andare in Italia. Certo, gli Stati Uniti hanno detto ai loro cittadini: attenzione, in Italia c'è il morbillo. Questo pur non avendo visto le porche. Metto una foto di Di Maio. Ammetto una foto di Di Maio, ma è vera questa cosa? O... No. No. Allora, sulla copertina di Vanity Fair, ecco la classica situazione in cui sono in difficoltà. C'è un bel manzo, questo posso dirlo. Un bel manzo? Manzo. Paola, ti sei rivitalizzata? Ma cosa? No, è buffissimo, un bel manzo, non lo sentivo dire dai tempi della scuola media. Ma no, Aurora Lussana qui ce lo dice sempre, per esempio, ma lei dice che Matteo Salvini è un bel manzo, lei è un po' strana. Chris Pat, okay, con due T, P-A-T-T, Chris Pat. No, c'è un R anche, Pratt. neanche leggere so Chris Pratt. Adesso sto zitto, tu stai zitta, Luca, dici tu. I guardiani della galassia. Guarda, l'hai detto in contemporanea con il nostro Peter Bescapè. Dai, i guardiani della galassia. È un filmone, lo so, lui non è. Cioè, però il film l'ha visto tantissimo. Comunque, come dici tu, è un bel manzo. Tra l'altro, così insomma, abbastanza. Semibiotto, cioè nel senso dal petto in su, Paola, dal petto in su. Senti, già non sai chi sono i guardiani della galassia. Poi non so chi è Chris. Poi Pratt. Ma io non ho parole. Alino. Vabbè, questa è la copertina di Vanity Fair. Però vi voglio chiudere oggi con la metafora di Bersani, perché signori, oggi oggi dovete veramente sfidare voi stessi. Perché oggi... Per me la metafora riesce, se fatta bene, a far capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice a volte, a tutti quanti. Allora, concentratevi, perché oggi, guardate che ci vuole un impegno. La metafora di Bersani oggi è questa. Perché il cavallo, se ha troppo grasso addosso, glielo togli e corre. Ma se è magro e gli togli qualcosa, casca per terra. Ma perché? Allora, cioè il cavallo, se è grasso e gli togli il grasso, corre. Ma se il cavallo è troppo magro e gli togli qualcosa, casca per terra. No, che capisco, cioè non puoi far deperire vuol dire, attenzione, non puoi fare la liposuzione a un cavallo magro, forse. Beh, adesso siete due mostri, io vi abbandono a quest'ora. No, ma cosa vorrà dire? Cioè, ecco, chi è il cavallo? Cos'è il grasso? Cosa rappresenta? Paola? Non saprei, non però saprei. Forse perché voleva fare il veterinario Bersani. Se c'è qualcosa di più, si può abbondare su quel qualcosa di più e se ne può anche fare a meno. Ma se il di più non c'è, E lo tiri via, non si può togliere. E dopo crolla tutto. Vai a Sky. Dopo aver detto questo, perché parlo? Giusto. Devo dire che Paola Saluzzi, secondo noi, ha fatto un'analisi perfetta della metafora di Bersani. E quindi io, nel rinnovare Chris Pratt in apertura, in copertina di Vanity Fair, in edicola, e Paola Saluzzi alle 10 su Sky, vi do un abbraccio e vi rimando alla prossima. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo, quello della Sicilia. 24 mattino.